La parola alla compagna Nilde Iotti. Io devo dire, compagni, che non sono del tutto d'accordo quando noi parliamo di crisi della democrazia in Italia. Per essere molto esatta, non condivido per esempio il titolo che l'Unità di questa mattina dà al rapporto del compagno Caglietta, perché mi sembra che in questa posizione ci sia da parte nostra l'accettazione di alcune posizioni che provengono dalla destra conservatrice e padronale e dalla Democrazia Cristiana circa il funzionamento della democrazia in quanto tale, del valore della democrazia nel suo punto più alto, che non ritengo che possano essere le nostre, in quanto e soprattutto non solo perché contrastano contro le nostre posizioni, ma in quanto e soprattutto contrastano con la realtà di fatto del paese. Significa questo che non mancano nel paese, anche nella classe operaia, momenti di sfiducia, di incertezza? Certo, se noi chiudessimo gli occhi di fronte a questa realtà commetteremmo un grave errore e dobbiamo avere piena coscienza di questi momenti di sfiducia e di incertezza della democrazia. Ma proprio per questo dobbiamo andare a ricercare più profondamente le ragioni di questi momenti di sfiducia e di incertezza che esistono anche nelle masse popolari. E io credo che sia giusto perciò parlare di crisi dello Stato conservatore, ma in ragione e in virtù di un processo che è avvenuto nel corso degli ultimi anni e che a mio avviso è ben lontano da una crisi della democrazia in quanto tale. Anzi, a mio avviso, mi pare di poter affermare che nel corso degli ultimi anni della vita politica italiana noi abbiamo assistito e assistiamo tutt'oggi a uno sviluppo impetuoso della coscienza democratica in tutti i suoi aspetti, e io vorrei ricordarle qui molto brevemente. Nella coscienza delle masse, oserei persino dire, anzi dico senz'altro, nella coscienza dell'individuo in quanto tale, nella concezione dei suoi diritti, della sua collocazione nei confronti della società e dello Stato, nelle lotte che animano la classe operaia, il compagno Scheda le ha ricordate qui in modo molto preciso questa mattina, nell'estensione di queste lotte che investono oggi ceti sociali che fino a ieri erano assenti dalla partecipazione a questa vita democratica. Io voglio citare qui anch'io, come tutti hanno fatto, ritengo giustamente, perché costituisce certamente il lato più nuovo e più acuto di questo fenomeno, le lotte che avvengono all'interno delle università italiane, a cui non può sfuggire il valore non solo in relazione alla lotta per la riforma della scuola, ma soprattutto, io in questo concordo con i compagni che sono intervenuti, anche col compagno Luporini, in relazione al problema più generale dello sviluppo della democrazia e della lotta per la trasformazione del nostro paese. Devo dire però, e apro rapidissimamente una parentesi a questo proposito, che non su tutte le cose affermate qui dal compagno Luperini io sono d'accordo, né tantomeno su molte delle cose che sono uscite, credo che in questo possiamo essere tutti della stessa opinione, sono uscite nel corso di questi giorni dalle università italiane. Non credo però che si tratti in questa fase, in questo momento, di discutere di questo. Io sento l'esigenza di un momento di riflessione degli organismi dirigenti del partito, in modo particolare del Comitato Centrale, sul modo come si sono sviluppate queste lotte, sui fermenti nuovi che si manifestano nelle università, ma anche sulle nostre posizioni, sulla collocazione che noi prendiamo. Io per esempio devo ancora trovare un compagno che abbia la bontà di spiegarmi che cosa significa una frase trovata per esempio nei resoconti dell'unità, che l'assemblea di facoltà è oggi la sola formula didatticamente valida a livello delle attuali strutture universitarie. Confesso che io non riesco a capire quello che questo significa, forse riesco a capirlo, ma vorrei anche vedere più chiaramente il significato politico di queste cose. Così come non capisco determinati atteggiamenti che noi sembriamo sostenere anche questa mattina nel resoconto dell'unità, di una specie di separazione, di un solco invalicabile tra corpo studentesco e docente, come se lì passasse la lotta di classe. Ora io mi rifiuto di considerare che la lotta di classe passa all'interno dell'università tra professori e studenti. Io accenno qui soltanto ad alcuni problemi e non ho alcuna intenzione di soffermarmi. Sento l'esigenza di un dibattito a livello del Comitato Centrale, ma voglio soltanto riferirmi a questi fatti come per indicare che anche in questo settore, che è stato quello dove noi fino a ieri eravamo più deboli, eravamo diciamo più assenti dalle lotte politiche, anche in questo settore esce una forte spinta della cui natura democratica noi non possiamo certamente disinteressarci. Aggiungo anche a tutti questi aspetti dello sviluppo della democrazia, la coscienza delle masse degli individui, la lotta, l'estensione delle lotte, anche un ultimo fatto, se volete. Come sia aumentata nel corso di questi ultimi anni la democrazia all'interno dei partiti, il dibattito all'interno anche dei partiti, del nostro, dello stesso partito della Democrazia Cristiana. E mi pare perciò strano che noi parliamo di fronte a un movimento che preme da tutte le parti e che prende sempre più coscienza di determinati obiettivi, in qualche campo chiaro, in qualche campo ancora confusi, ancora non ben elaborati. Noi, mi sembra strano che noi parliamo in questo momento di crisi della democrazia. La crisi però esiste. E secondo me esiste nel contrasto che si viene manifestando tra questo movimento democratico e la struttura dello Stato, il modo come lo Stato si organizza, il modo come si esprime il potere politico nel nostro Paese. Questa è la crisi che attraversa la democrazia italiana. E io ritengo che noi dobbiamo avere fino in fondo coscienza di questo tipo di crisi, altrimenti, compagni, ci mettiamo tutti nello stesso sacco e della crisi della democrazia siamo responsabili noi in un certo senso, o accettiamo una parte di responsabilità come la classe dirigente del nostro Paese. Io credo che noi dobbiamo respingere questa impostazione. Ora vi è un po' da vedere perché esiste questa crisi della struttura dello Stato e del potere politico con quelle che sono invece le spinte democratiche in sviluppo nel Paese. E qui vi è tutto il discorso che noi conosciamo e di cui dobbiamo portare anche noi fino in fondo le conseguenze. La lentezza dell'elaborazione legislativa, il fatto che lo Stato nel quale viviamo, io vorrei sottolineare questo elemento, non è lo Stato costituzionale. È il vecchio Stato conservatore fascista. Noi abbiamo da un lato la Costituzione repubblicana, ma dall'altro lato, non ce lo dimentichiamo, le leggi fondamentali dello Stato sono rimaste le stesse. È rimasta lo stesso la legge di pubblica sicurezza, è rimasto lo stesso il codice civile, è rimasto lo stesso il codice penale. Non sono state in alcun modo avanzate e rese attuali le norme della Costituzione relative alla funzione sociale della proprietà, il che significa le riforme sociali. È rimasta conservatrice nella sua sostanza in ogni suo momento la direzione delle classi dirigenti del nostro Paese e del Partito della Democrazia Cristiana. Ci troviamo dunque in uno Stato conservatore, in qualche momento addirittura fascista, e dall'altro lato di fronte a una spinta democratica. Ora io credo che di qui nasce la crisi così profonda e così preoccupante che noi abbiamo di fronte, e dobbiamo perciò fino in fondo voluto portare avanti l'accusa al Partito della Democrazia Cristiana di aver compiuto questa scelta negli anni del 47-48 e ad aver voluto condurre tutta la democrazia italiana ingabbiata nella vecchia struttura dello Stato conservatore e di aver voluto consapevolmente per ragioni di classe molto precise dirigere tutta la politica di questi 20 anni contro lo spirito della Costituzione. Per questo oggi ci troviamo di fronte alla situazione che abbiamo, per cui la democrazia e questa spinta democratica appare come chiusa in una gabbia che non corrisponde alle esigenze di questa vita democratica e di qui tutte le conseguenze anche di crisi, di fede nella democrazia, di possibilità di raggiungere determinati obiettivi che si trovano anche alle masse popolari. Ma io ritengo che la nostra posizione debba essere in modo chiaro e preciso di accusa a questo stato di cose, allo stato conservatore italiano voluto dalla Democrazia Cristiana, alla volontà politica conservatrice della Democrazia Cristiana. E dall'altro lato, con altrettanta forza, dobbiamo riuscire a far apparire in modo chiaro che o si dà mano a una trasformazione dello Stato in senso costituzionale, così come stabilito dalla Costituzione, oppure non si esce da questa crisi della vita politica italiana. Di qui a me pare di vedere riconfermata tutto il valore della Costituzione repubblicana, soprattutto in quella parte che noi abbiamo sempre sostenuto e alla cui formulazione abbiamo dato tanto contributo, che è quella di carattere sociale, di carattere politico, di carattere etico, e meno certamente a quello che riguarda la struttura degli organismi dirigenti dello Stato. Ora, io credo che dobbiamo anche, certo, non sottovalutare in una situazione di questo genere il pericolo delle classi dominanti e il pericolo di tentativi autoritari che da una situazione così, di questo contrasto fra una democrazia di base e una struttura non democratica dello Stato escono ad ogni momento. Ieri il compagno Chetto ha detto: certo, la democrazia repubblicana sta stretta alle classi dirigenti del nostro paese. È vero che la democrazia repubblicana sta stretta alle classi di dirigenti del nostro paese, purché intendiamo per democrazia repubblicana quella vera, non quella di oggi, e soprattutto quello che le classi dirigenti temono è questa spinta che proviene dalle classi popolari del nostro paese, per cui il tentativo di mettere la museruola a queste spinte attraverso strutture dello Stato anche più autoritarie, anche più conservatrici, è sempre aperta, e noi dobbiamo stare molto attenti a mantenere invece il discorso sulle responsabilità di queste situazioni e sulla necessità di dare anche istituzionalmente forma alle spinte democratiche che provengono dal paese. Io devo dire, compagni, che in questa situazione, che colloco anche il valore del discorso nuovo sul dialogo con noi aperto negli ultimi tempi dal Partito della Democrazia Cristiana. Certo, io sono d'accordo col compagno Chiaromonte, quando il compagno Chiaromonte afferma che ci sono dei fatti nuovi nelle posizioni della Democrazia Cristiana a proposito del dialogo. È vero, ci può essere stata una spinta a prendere questa posizione dalla difficile situazione del Partito della Democrazia Cristiana a proposito del dibattito del SIFAR e quindi ad aprire un discorso che potesse in qualche modo smussare la punta della nostra offensiva, senza peraltro riuscirci. Tuttavia credo che esista, e del resto alcuni compagni l'hanno ripreso qui, anche qualche cosa di più profondo che proviene, ed è questo, io voglio sottolinearlo, il fatto nuovo, non più solo dalla sinistra della Democrazia Cristiana, ma dal Partito della Democrazia Cristiana in quanto tale. Io credo che non vada sottolineato l'importanza di questo fatto. E io mi pongo a questo proposito una domanda, che è soltanto una domanda a cui non sono ancora in grado di dare risposta. questa nuova, diciamo, disponibilità, seppure in certi limiti al dialogo, del Partito della Democrazia Cristiana in quanto tale con noi, proviene soltanto da motivi contingenti o anche forse, in questo concordo con le cose dette dal compagno Chiaromonte, dalla consapevolezza, forse non ancora dalla consapevolezza, ma almeno dalla percezione dell'esistenza di questa crisi di fondo tra lo sviluppo di uno spirito democratico, di una coscienza democratica del Paese e lo Stato che il Partito della Democrazia Cristiana ha costruito. Non si apre qui quindi tutto un campo fecondo di dibattito, di discussione, di polemica anche aspra, di accuse da parte nostra, ma può darsi dei grandi risultati in questa competizione col Partito della Democrazia Cristiana. Il compagno Longo nel suo articolo su Rinascita ha risposto, e io sono completamente d'accordo con le cose dette dal compagno Longo. Vorrei con molta modestia dire per conto mio che questo problema del dialogo con la Democrazia Cristiana noi non dobbiamo lasciarlo in alcun modo cadere, neppure nel periodo elettorale, vincendo la tentazione, io ritengo, di pensare che nel periodo elettorale il problema del dialogo possa essere qualche cosa che indebolisce la nostra posizione d'attacco. Anzi, io ritengo che continuare il dialogo con la Democrazia Cristiana nel corso del periodo elettorale rafforza la nostra posizione d'attacco al Partito della Democrazia Cristiana, più che abbandonarlo. Certo, si tratta di vedere come noi lo conduciamo. E a mio avviso le linee di azione sono due nel per sviluppare questo dialogo. Primo, richiamarci alla realtà che io ritengo vera della crisi del nostro paese, quindi alla responsabilità della Democrazia Cristiana, e inchiodare la Democrazia Cristiana a queste responsabilità. Ma al tempo stesso condurre avanti anche con la Democrazia Cristiana un discorso positivo. Un discorso positivo sui problemi che esistono anche all'interno del Partito della Democrazia Cristiana, sulle questioni che sorgono dallo sviluppo democratico della coscienza delle masse, sui problemi che hanno già trovato un eco nell'elaborazione del Partito della Democrazia Cristiana, sulle posizioni assunte nei loro congressi, non ultimo il congresso di Milano, che a questo proposito è stato, per giudizio unanime di tutti noi, un congresso spostato a sinistra. Noi dobbiamo quindi muoverci su queste due linee, attaccare la Democrazia Cristiana con grande forza, come la responsabile prima di questa situazione politica, addirittura se non unica, inchiodare la Democrazia Cristiana alle sue responsabilità, ma al tempo stesso riuscire a sviluppare anche questo dialogo positivo che ha dei punti programmatici molto precisi, che non sono nuovi, che possono trovare un eco all'interno del Partito della Democrazia Cristiana. Credo che noi su queste due linee dobbiamo intessere tutta la nostra azione. E a me pare che questo sia estremamente importante in questo periodo, perché mi sembra che solo in questo modo noi possiamo, lasciatemi dire l'espressione, costruire insieme, se con la parte migliore della Democrazia Cristiana, le condizioni per un rovesciamento della politica della Democrazia Cristiana, per intessere, come giustamente è stato detto, un tipo di rapporto tra Democrazia Cristiana ed altri partiti diverso da quello attuale, che significa in altri termini spezzare il monopolio della Democrazia Cristiana e aprire la strada alla formazione di una nuova maggioranza.